fare subito le cose. Però forse... No, ma vabbè, secondo me aspettiamo solo pochissimi, proprio due, tre, due minuti, fino ai 35. Se arriva ancora qualcuno. Ma sì, insomma, l'autorità va bene. Ok, qua capito. Da altre parti, sì, ma è sempre quelli ci sono stati molto piani, ma anche forte di dice. Il milanese 28. Il milanese. No. Cioè, come dice lui, sulla mia carta identità c'è scritto Milano, perché lui è nato a Milano, quando noi ero ancora a Milano, quindi fa il milanese. Cioè. Avrà anche un nome suo, però. No, ma lui è anche abbastanza anglofono, perché ha studiato anglofono, germanofilo, perché ha studiato il Galilei, lo scientifico, e ha fatto tanto tedesco da ragazzo. E proprio settimane fa è stato Berlino, una settimana. Sì, la... il tedesco è una lingua che però se non l'esercita bene. Eh sì, sì, infatti, infatti, infatti, infatti. Sì, infatti ha detto io ero un po' in difficoltà, però me la sono cavata. Buonasera, benvenuti, benvenute dalla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. Stasera abbiamo un incontro, il terzo, per il ciclo Noi le storie, biblioteca. Siamo partiti in collaborazione con l'Università di Trento, già a marzo, con un incontro di storia moderna, poi siamo passati alla storia medievale, e a ritorno, quindi dobbiamo parlare della Grecia antica, anche se l'ultimo appuntamento, che invece sarà il 10 di dicembre, in cui sarà presente Andrea Bonoldi, ci parlerà del suo libro, si parlerà invece del 8-900. Per cui insomma abbiamo fatto un excursus veramente storico abbastanza interessante, no, molto interessante e abbastanza vario. E per quello che riguarda la serata di stasera, appunto abbiamo finito il 10 giugno, sempre dell'Università di Trento. Vi voglio parlare però degli appuntamenti prossimi, in particolare già mercoledì avremo Davide Franco Iabes con noi, che parlerà del suo libro Il leader, Adolf Hitler, la manipolazione, il consenso e il potere. Quindi alle 17.30 mercoledì, se siete interessati all'argomento, potete venire qui in biblioteca. Per quanto riguarda invece il gruppo di lettura che organizziamo un mercoledì al mese in biblioteca, il gruppo di lettura sta leggendo di Marco Pontoni Tra gli uomini. Il gruppo ne parlerà in biblioteca il 6 dicembre, il giorno di San Nicolò. Bene, gli appuntamenti dei prossimi giorni li ho letti, passo la parola a Andrea Bonoldi, ricordandovi però che oltre a questo ciclo che presentiamo stasera, abbiamo anche quest'altro che è Storia di mobilità, marginalità e repressione. Il prossimo appuntamento sarà con Paola Tervisan e sarà il 27 di novembre, lunedì prossimo, per cui vicinissimo, la persecuzione dei Romi e dei Sinti nell'Italia fascista. In dialogo con Francesco Poni avremo appunto Paola Tervisan. Vi auguro una buona serata, un ascolto. Passo la parola a Giacomo. Grazie, grazie molte Monica Marconi. Io sono sempre colpito dalla quantità di iniziative che la biblioteca riesce a mettere in piedi, insomma, rispondendo in pieno a quelle che erano le discorsi che si facevano, mi ricordo, nel momento dell'istituzione, in cui questo doveva essere solo un luogo di conservazione della memoria materiale, ma anche un luogo appunto di incontro, di confronto, e questa cosa è stata portata avanti in modo egregio. E non voglio dilungarmi troppo nel spiegare il senso di questa iniziativa, perché ho avuto già modo di farlo in altre occasioni, ma mi preme insomma sottolineare quanto la collaborazione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento e la Biblioteca Provinciale di Lingua Italiana Claudio Augusta sia uno dei canali che si cercano di costruire per fare una rete tra le istituzioni che si occupano di cultura su questo territorio, che penso sia un'iniziativa insomma, che possa portare frutti importanti, ma non mi voglio dilungare troppo appunto perché oggi voglio lasciare lo spazio che meritano i nostri ospiti, che oggi sono ben due, appunto abbiamo con Giorgia Proietti e Maurizio Giangiulio, che ringrazio molto per essersi preso il tempo di essere qui con noi oggi, nonostante i pressanti impegni di natura scientifica e didattica, insomma, da cui sono gravati. Allora, come vedete, come ha detto anche Monica, il nostro percorso tra recenti pubblicazioni di studiosi e studiose dell'Università di Trento, che offrono una panoramica aggiornata di intere epoche storiche, è stato fin qui appunto a ritroso, visto che siamo partiti dall'età moderna, poi siamo passati al Medioevo e oggi giungiamo finalmente alla storia greca. Ecco, una sorta di allontanarsi dal presente, che in qualche modo potrebbe anche far pensare che ci sia dentro in un terreno storiografico per alcuni versi più stabile e consolidato, connotato non soltanto da un quadro interpretativo condiviso, ma anche da una percezione in gran parte meno problematica forse nel discorso pubblico. Insomma, il topos conosciuto della civiltà greca come una delle radici della nostra contemporaneità sembra, almeno tra i non addetti ai lavori, talmente condiviso e indiscusso da non lasciare molto spazio a nuove interpretazioni, a revisionismi di vario genere. In realtà, questo volume che andiamo a presentare oggi dimostra che la situazione è assai più vivace e complessa. Ora, mentre in altre occasioni, eccolo qui, era stato io stesso a interloquire con il curatore dell'opera, in questo caso invece mi ritiro in buon ordine, visto la mia ignoranza quasi assoluta in materia, lasciando invece spazio all'interazione tra i nostri due ospiti. Ma lasciatemi comunque dire che continuo a essere sorpreso e ammirato dalla capacità di chi si occupa di questo periodo storico, e che emerge pienamente anche dalle pagine di questo volume, di offrire continuamente nuove e stimolanti chiavi di lettura e di far avanzare costantemente la ricerca, proponendo interpretazioni e prospettive nuove e stimolanti, ad esempio dal punto di vista della dimensione dello spazio politico-culturale, da quello della natura delle istituzioni, sulla memoria, la percezione e autopercezione, c'è un bellissimo paragrafo di questo libro che si è intitolato Cos'è un greco, e ancora anche su un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che è quello economico. Sì. È giunto tuttavia il momento finalmente di presentare i nostri protagonisti di stasera, cominciando dal curatore del volume, Maurizio Giangiulio, che è autore anche di diversi capitoli, e ha coordinato una valente squadra di studiosi e studiosi, tra cui appunto anche Giorgia Proietti. Maurizio Giangiulio si è laureato in lettere presso l'Università di Studi di Pisa, ha conseguito il diploma di licenza alla Scuola Normale, dove ha poi avuto anche un corso triennale di perfezionamento alla Scuola Normale Superiore, ha avuto borse di scambio presso l'Università di Ginevra e ha cominciato la sua carriera accademica come professore a contratto di storia greca a Dublino, per poi trasferirsi a Trento, dove poi ha avuto una lunga carriera fino ai giorni nostri. Ha moltissime pubblicazioni al suo attivo, insomma non sto qui a elencarle, sono 130 pubblicazioni. Mi piace ricordare l'ultima, che tra l'altro trovate anche qui sul tavolo, che è Magna Grecia, una storia mediterranea, uscita nel 2021. E con noi c'è anche Giorgia Proietti, che ha conseguito il dottorato di ricerca in storia greca presso l'Università degli Studi di Trento, con borse di ricerca ad Atene e Londra, e nonostante sia molto giovane ha già al suo attivo 50 pubblicazioni, sedi nazionali e internazionali, e anche guida anche un progetto di ricerca nazionale prima su memoria e spazio nell'antica Atene, topografia, monumenti e paesaggi mentali, e ha conseguito anche l'abilitazione scientifica nazionale professore di seconda fascia. Tra le pubblicazioni mi piace ricordare appunto quello che è il punto del suo dottorato di ricerca, che è prima di Erodoto, aspetti della memoria delle guerre persiane, uscito anche questo nel 2021 presso l'editore Steiner di Stoccarda. Bene, ho fatto le presentazioni, ho fatto il mio dovere, adesso passo senz'altro la parola ai nostri ospiti. Vi ringrazio ancora per essere qui. Bisognerà accendere, forse bisogna sostituirlo. No, no, ma mi sa che funziona. È verdina la lucetta. Adesso è verde. Sì. funziona. Sì, va. Funziona. Dice che deve essere tenuto molto vicino questo supporto. Si sente? Sì, immagino di sì. È amplificato per la registrazione, quindi posso andare? Va bene. Allora, grazie alla Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta, grazie alla direttrice, grazie alla dottoressa Marconi per l'invito, l'ospitalità, sono molto contento, siamo molto contenti di essere qui. Grazie all'amico, collega e amico Bonoldi per non solo la presentazione gentile, sintetica ed efficace, ma anche per tutto quello che ha fatto per la riuscita di questo incontro. E allora io parlerò, vediamo, 10 minuti, vediamo se riesco a dire 10 minuti, poi dopo Giorgia Proietti dialogherà con me, diciamo così. Io non sono esattamente l'autore di questo libro si chiama Introduzione alla storia greca. È stato pubblicato nella collana Strumenti della casa editrice Il Mulino, che non ha bisogno di essere presentata. Ne sono il curatore. Questo significa che è un volume un po' articolato, volutamente articolato, no? Si divide in due sezioni. La prima si chiama Temi e problemi, la seconda Storia greca un profilo. La prima sezione, Temi e problemi, è una raccolta di saggi di colleghi italiani e stranieri su questioni rilevanti per la comprensione del passato greco. Facciamo una carrellata rapidissima. La memoria e la tradizione di Giorgia Proietti, Erodoto, Tucidide e colleghi, gli storici greci e il passato, processi di formazione, che ho scritto io insieme ad Elena Franchi, le dinamiche della mobilità, un altro capitolo che ho scritto io, le élite arcaiche di Alain Duplouy, collega francese, la terra, il lavoro, diritto e società, Atene, l'impero e lo spazio egeo, economia e società, e così via. Poi c'è un'altra sezione, il potere, allora il potere personale, i tiranni, la democrazia, leghe e stati federali, re, regine, dinastie, la monarchia ellenistica. Una sezione quinta, gli ambienti, allora Sparta, il Peloponneso, la Macedonia, l'Asia Minore, l'ellenismo come intreccio di culture, dall'Eufrate all'India, e qui che c'è questo paragrafo, che cos'è un greco. La storia greca, un profilo, è la seconda parte, è una sintetica storia, presentazione della vicenda storica sulle cui caratteristiche torneremo. Voi direte, ma insomma, perché una introduzione alla storia greca? Vorrei fare qualche osservazione. La prima... La storia greca, in realtà, come ha accennato molto acutamente Andrea, non è il luogo dove ritrovare rassicuranti e tranquillizzanti, pacificanti radici. Quello che siamo lo fu una volta, in piccolo, in maniera iniziale. Dunque noi veniamo da lontano, veniamo dai greci. Le cose non stanno esattamente così, eh? Non stanno esattamente così, sarebbe anche molto lungo spiegarne la ragione, ma la vera ragione è che quello che fu greco si è trasformato in maniera profondissima, attraverso l'età romana, attraverso il medioevo cristiano, attraverso una tumultuosa età moderna in cui sono nati gli stati nazionali, sono nate le grandi confessioni religiose che hanno diviso l'Europa, tutto ciò che è stato greco si è trasformato profondamente. Facciamo un esempio banale ma molto parlante: la democrazia greca. La democrazia greca era una cosa molto diversa dalla democrazia dei nostri tempi, dai regimi rappresentativi, parlamentari, partitici dei nostri tempi. La democrazia greca era una cosa molto diversa, va bene? Era una democrazia diretta, funzione di una face-to-face society, cioè funzione di una società in cui tutti conoscevano profondamente tutti, come in una comunità montana, come in un villaggio delle nostre montagne. Quindi ridurre il nostro rapporto con la grecità a un rapporto con le radici significa appiattire tutto, appiattire la nostra modernità e contemporaneità, ma anche appiattire quel mondo. E dunque il motivo per tornare ancora una volta a riflettere sui greci, poi vedremo come, non è quello di recuperare, ribadire ancora una volta le radici. No, il motivo è per esempio quello di fare un incontro anche spiazzante con una civiltà che si forma pressoché dal nulla. È estremamente interessante, questo non capita quando si studia il Medioevo, no? L'eredità romana è così impressionante, e nemmeno quando si studia l'età moderna, l'eredità medievale, tardo medievale, è così pesante. Con i greci invece siamo di fronte a un fenomeno che può insegnare moltissimo. Come si forma una civiltà pressoché dal nulla? E allora, qui dico poche cose, poi si potrà tornare. La civiltà greca è una civiltà che svolta, cambia pagina rispetto al passato. Nel suo passato, alle spalle, cioè più anticamente rispetto ai greci, cosa c'è? Ci sono grandi civiltà, quella egizia, quella mesopotamica, no? Beh, quelle civiltà sono civiltà profondamente gerarchiche, capaci di mobilitare forza lavoro in quantità straordinarie per le grandi opere pubbliche o per non solo le piramidi, ma anche per irreggimentare i fiumi, il Nilo, il Tigri, l'Eufrate. Quelle sono state chiamate civiltà idrauliche, non a caso, no? Quindi grandi apparati di potere, grandi gerarchie politiche e religiose, e in basso grandi masse assoggettate, no? A procurare risorse agricole e a procurare forza lavoro. Civiltà in cui potere e religione dall'alto si uniscono ed esercitano un controllo capillare sulla piramide sociale. Va bene? Poche eccezioni: i Fenici, popolo cittadino, commerciante, marinaro, pochissime eccezioni, quasi l'unica. I greci non conoscono nulla di tutto questo. La civiltà greca si auto-organizza dal basso. Non c'è un precedente monarchico, non c'è un potere da togliere a qualcuno e ripartire tra altri. Bisogna costruirlo, il potere che è necessario per vivere insieme in maniera ordinata, il potere della legalità, il potere delle leggi, per esempio. Ma bisogna costruire un assetto condiviso in cui il potere è riconosciuto, conteso naturalmente, a volte in maniera straziante, però è riconosciuto ed è istituzionalizzato, no? Cioè tendenzialmente sottratto all'arbitrio personale e assegnato a strutture, virgolette, tendenzialmente astratte, le cariche pubbliche, le istituzioni politiche. Ma tutto questo con enorme differenza rispetto al passato di quelle grandi civiltà monarchiche, gerarchiche, tutto questo si costruisce nel tempo, si costruisce all'interno delle comunità politiche, cioè di quei gruppi che poi si riconosceranno come gruppi di cittadini, no? Che appunto si auto-organizzano, si danno delle regole, si strutturano gradualmente a livello istituzionale, e dunque concretizzano modalità di vita in cui non c'è un sovrastante e schiacciante potere né politico né religioso, perché anche la religione è comunitaria, non ci sono le caste, non c'è una rivelazione, non ci sono i libri sacri, dunque non c'è un sovrastante schiacciante potere che dall'alto tiene ordine nella società assoggetta, e non ci sono queste masse di fornitori di forza lavoro e di risorse da confiscare verso l'alto. C'è alla base una molteplicità di liberi, magari poveri, ma liberi coltivatori, che fanno parte della comunità politica. Certo, è una partecipazione complessa, spesso osteggiata, a volte marginalizzata, che solo nella democrazia diventa piena, però è una partecipazione. Certo, col tempo queste comunità politiche di liberi che si autogovernano, che esprimono la cultura della legalità, della legge cogente che obbliga tutti indipendentemente dalle condizioni sociali, queste comunità diventano anch'esse in grado, perché arricchiscono, perché assumono influenza su comunità minori, in grado di costruire delle politiche di potenza. Ed ecco allora che insomma acquistano certi tratti di società schiavili, no? Ci sono schiavi merce venduti e comprati fuori dalla cittadinanza, però fuori dalla cittadinanza, e ci sono anche fenomeni di dominio. Atene dominerà su tante altre città, Sparta lo stesso, ecco. Ma il carattere comunitario di queste società resta intatto, non diventeranno per lungo tempo società stratificate con vertici politici forti, qualcosa del genere accadrà molto più tardi, dopo la morte di Alessandro Magno. Allora, tornando, perché è un esperimento mentale, anche esistenziale, molto interessante, quello di fare i conti con una grecità che non è un freddo repertorio di valori eterni da contemplare, ma che è un laboratorio politico, un laboratorio sociale, naturalmente anche un laboratorio culturale. Vedere come si forma la nozione appunto di norma, di legge, se vogliamo, che vincola tutti, no? È eccezionalmente interessante. Non c'era mai stata davvero una nozione di questo genere. C'era una legge rivelata, per esempio, nella cultura giudaica, c'erano leggi volute dai sovrani in Mesopotamia, il codice di Hammurabi, no? C'era una giustizia divina, una forza, una entità soprannaturale che il faraone naturalmente incarnava nel mondo egizio, ma non c'era la legge greca, perché le origini della legge greca sono la decisione collettiva dei cittadini riuniti in assemblea. Essi assumono una delibera che ha uno statuto pubblico e obbligatorio per tutti. Queste sono le radici della cultura, della legalità dei greci, e insomma confrontarsi con un processo di questo genere ha un enorme interesse, così come ha un enorme interesse cercare di capire che significa, cosa significa che queste comunità si auto-organizzano, no? Perché mai avrebbero dovuto farlo, e invece lo fanno, perché se non c'è un potere dall'alto che spinge la società ad assumere, che dà una forma alle società, se non c'è una pressione esterna che obbliga il gruppo a organizzarsi, e beh, in assenza di tutto questo, l'unico modo per organizzarsi è assumere una funzionalità comunitaria, cioè funzionare come comunità. Le magnifiche comunità delle valli trentine, per esempio, sono un esempio esattamente di questo. Ecco, e quindi, insomma, accostare i greci da questo punto di vista è sembrata una sfida da cogliere, che permette questa sfida di fornire uno strumento anche di informazione, non solo di formazione universitaria, anche di informazione al lettore colto, che però rispecchia la ricerca più aggiornata e non ripete o scrive in bello stile letterario ciò che è assolutamente risaputo o addirittura sbagliato, come si legge in tanti libri sulla mitologia, Penelope, eccetera, o Achille. Quindi c'è questa possibilità di accostare la ricerca più recente e di farlo anche con una certa possibilità di autonomia, cioè questo libro vuole fornire uno strumento, come dice la collana, che però possa essere gestito in maniera molto articolata. Si può leggere un saggio della prima parte, due, tre, dice io sono interessato all'economia, bene, leggo l'economia dell'impero ateniese, com'è che nell'età di Pericle, del Partenone, no? Ecco, Atene riesce a gestire l'intero mare Egeo che pullula di isole, lo sappiamo, no? Di città, come un lago ateniese, una unità economica. Pensate che a un certo punto Atene impone, unifica monete, pesi e misure di un insieme di svariate decine di poleis del mare Egeo, no? Quindi uno può vedere l'economia, oppure può leggere il capitolo sui tiranni, oppure può leggere un capitolo sull'ellenismo. Ellenismo è il nome dell'età che segue, nome convenzionale che segue, tutta una storia, ma comunque un nome convenzionale che segue l'età di Alessandro. Leggere un capitolo in cui un paragrafo si chiede ma che cos'è un greco in età ellenistica, perché l'età ellenistica è l'età in cui si sfondano, come dire, tutti i limiti geografici, territoriali e culturali, e noi troviamo l'alfabeto greco, la cultura greca nell'attuale Afghanistan o nell'attuale Pakistan, l'arte dei primissimi secoli della nostra era in Pakistan è un'arte greco-buddista, dove ancora le forme plastiche della scultura e della tradizione scultorea greca permangono, ma rappresentano devoti buddisti o il Buddha stesso. Quindi si può leggere un capitolo sull'ellenismo, oppure si può tornare a sondare alcuni capitoli della trattazione storica e leggere di Pericle o piuttosto che delle guerre persiane, in un'ottica, e con questo chiudo, in un'ottica che non vuole essere né classicistica nel senso devoto e zelante del termine, né atenocentrica. Non tutta la storia greca è Atene, anzi la storia greca è Atene e insieme molte altre realtà e ambienti e regioni e territori e pratiche sociali e costumi, e dunque un libro che può prestarsi, non è uno di quei libri che vanno letti dalla prima all'ultima pagina, non è un libro come dire di ricreazione, è un libro per pensare, è un libro per affrontare un po' grandi questioni, ma i greci d'altra parte non hanno fatto altro che affrontare grandi questioni, comprese quelle matematiche, e dunque non poteva essere diversamente. Dopodiché, come si dice, se in questo mondo così veloce, frammentato e, fatemelo dire, superficiale, ogni tanto si affronta qualche grande questione, difficilmente potrà fare male. Io vi ringrazio dell'attenzione, mi sono dilungato un po', ma grazie. Bene, ha già detto tutto in realtà, anche se in luce magari riusciamo ad approfondire qualche aspetto. Io vorrei introdurre questa conversazione con Maurizio Giangiulio con una osservazione in qualche modo preliminare, che riguarda cioè il fatto che la storia, qualsiasi storia, la storia greca come quella romana, medievale, moderna, non è data e scritta a priori una volta per tutte, ma è un prodotto culturale che cambia nel tempo, non soltanto perché ci sono ancora, nel nostro caso, scoperte archeologiche ed epigrafiche, ma perché cambia lo sguardo con cui la si osserva, cambiano le domande che si pongono alla documentazione, cambiano le categorie storiografiche, i paradigmi interpretativi con cui si interpreta la documentazione. E da questo punto di vista questo manuale è uno dei più innovativi, dei più nuovi nell'ambito dell'editoria universitaria degli ultimi decenni, alla luce senz'altro di alcuni progressi della ricerca storica antichistica, ma anche alla luce di una serie di novità di approccio che chiederei a Maurizio Giangiulio di così introdurre in un quadro di insieme, magari focalizzandosi su alcuni aspetti sui quali le novità interpretative dicono veramente qualche cosa di nuovo, per esempio le origini della civiltà greca, che è descritta in maniera molto diversa rispetto a quanto la si immagina comunemente. Sì, grazie della domanda, ma ho già risposto, cioè ne ho già parlato in realtà, e no, vorrei dire molto di più, se non esplicitare un approccio che è di metodo, ma è concreto, cioè le culture, ora, civiltà è un termine un po' scolastico, diciamo, preferiamo il termine più antropologico, le culture. Le culture non sono il derivato della natura dei popoli. Anzi, si potrebbe dire che i popoli assumono la natura che la loro cultura tende a dare loro. Si potrebbe rovesciare. Che vuol dire che le culture non sono il prodotto della natura dei popoli? Che la natura dei popoli in realtà non esiste. O esiste in misura impercettibile, è una questione quasi, quasi metafisica, no? Dunque, come una cultura e anche un popolo si formano, perché entrambi si formano, nell'uno, nell'altro esistono come un dato preesistente, eh? Non è che a un certo punto arrivano i greci, arrivano gli etruschi, arrivano i romani. L'esempio dei romani sarebbe un esempio splendido. Se c'è un popolo misto e di complessissime origini a seguito di trasformazioni in loco, sono i romani, no? Non sono mai arrivati da fuori, ma nemmeno i greci in realtà. Quindi vedere come si formano, e come si formano, registrare i processi, studiare un po' questi meccanismi per cui si vede che alcuni sviluppi vengono prima, per esempio tutto ciò che riguarda l'insediamento, il controllo del territorio, altre vengono dopo, le istituzioni, la legalità vengono dopo, la religione viene prima, le pratiche comunitarie vengono prima, la politica, virgolette, in realtà viene dopo. Significa capire meglio, no? Capire meglio, piuttosto che pensare come nella nostra tradizione di studi si è fatto fino a 30 anni fa, piuttosto che pensare che a un certo punto c'è un boom, no? C'è un momento in cui nasce qualcosa, nasce la polis. Ci sono degli articoli importanti di alcuni decenni fa. Quando nasce la polis? Quando nacque la polis? Dunque, che la polis sia nata è dato per scontato. L'unico problema è capire quando, no? Quando? La polis è un insieme di processi che vanno ricostruiti uno per uno, seguiti nel tempo, che hanno velocità diverse, che si incrociano e producono il fenomeno polis, cioè comunità politica dei cittadini che si autogovernano, lo producono lentamente, non dovunque, in certi posti no, in certi ambienti no, e per un certo tempo, perché la polis non è appunto durata per sempre. E quindi questa idea delle origini come formazione, come processo, come frutto delle esigenze organizzative della vita collettiva e non come esito di una natura intrinseca data una volta per tutte, questo è quello che caratterizza un po' questo approccio. Ecco, questo mi fermo, se no. No, questo sì, è un po' macchinoso dire queste cose. Forse si potrebbe aggiungere che specchio in qualche modo di questa visione processuale, no? Attenta alle dinamiche di formazione, di trasformazione. Della storia greca è anche l'idea di storia greca che anima il profilo di storia greca delineato in questo volume, e cioè un'idea di storia greca costruita, o meglio, rappresentata come un insieme di sistemi di potere, come un insieme di assetti giuridico-istituzionali, di strutture socio-economiche, e non come una mera sequenza di eventi, secondo, soprattutto militari, come secondo, certo, l'approccio fondamentale, no, della, che è generalmente diffuso, sì, nella perché, manualistica. Sì, perché se si pensa, come si è pensato, di fatto, fino a pochi decenni fa, che i greci e i romani, insomma, erano come noi, solo che sono venuti prima. Beh, allora se ne fa la storia, no? Cioè, poteri, alleanze, battaglie, guerre, evoluzioni geopolitiche, ma per il resto tutto è uguale. Avevano i partiti come noi, diversi, un po' più così primitivi, ma insomma avevano i partiti, avevano le mire espansionistiche, avevano le strategie commerciali internazionali, avevano i conservatori e i progressisti, beh insomma sostanzialmente appunto erano una copia ante litteram, come si dice, no? Di noi moderni, di noi contemporanei. Perché? Perché l'Ottocento fece un cortocircuito tra il suo tempo e il tempo dei Greci, no? Una identificazione assoluta, e questa identificazione assoluta poi è passata nelle scuole, eccetera. Invece questo è un mondo abbastanza diverso, che ha molto da insegnarci naturalmente, ma è un mondo diverso, un mondo che va decifrato e che va guardato un po' nelle pieghe, e quindi come diceva Giorgio Proietti, dimensioni diverse che si incrociano, quella territoriale, quella economica, quella giuridico-politica, poi c'è quella culturale. Va detto che qui manca la grande cultura dei Greci, ma si farebbe un servizio veramente misero a costringere Socrate in mezza pagina, o Platone in due pagine, o la tragedia in tre. Quelle sono dimensioni culturali così importanti che vanno destinate ad un altro strumento. Questo strumento è relativo a questo mondo nei suoi aspetti, diciamo, più strutturali, ecco. E quindi né gli aspetti della politica, diplomazia, l'histoire, battaglie, la storia delle guerre, né la letteratura, no, non è un libro sulla letteratura greca, è un libro un po' sulle strutture fondamentali, ecco. E poi non ci sono solo i greci, no? Cioè, giusto? Certo, anzi, le avrei chiesto poi e quanto spazio in effetti lei dedica qui e i vari autori dedicano alla, non soltanto ad Atene e a Sparta, ma anche alla grecità periferica, diciamo, ai contesti meno documentati, e anche ai non greci, popolazioni non greche con cui i greci stessi entrano in contatto o in conflitto, certo. E rende questo volume in effetti diverso dagli altri. Sì, se non altro perché suggerisce delle letture, per esempio la storia greca dell'età classica, no? Cioè appunto quinto e quarto secolo, che è l'età dell'apogeo, quindi dal Partenone a Platone ad Aristotele, quindi, no? In realtà non si capisce se non si fa conoscenza con quelli che sono tutt'altro che i barbari, e cioè i persiani. I persiani sono parte integrante della storia di questo apogeo, di questi due secoli. Allora, qui si dedica un minimo di attenzione a chi sono i persiani, da dove vengono, come si sono strutturati, i medi, i persiani, eccetera. Sia alle origini, cioè nei primi secoli intorno al 1000, e sia più tardi, no? Nel IV secolo e poi nel confronto, scontro con Alessandro Magno. Naturalmente le pagine dedicate a questo sono poche, però il messaggio è, beh, insomma, leggiamo, ci sono tanti libri in italiano sui persiani, libri importanti, tradotti. La storia dei greci, in realtà anche la storia dei persiani, e i greci lo sapevano benissimo, molto più dei classicisti, dei professori tedeschi e anche dei professori con cui abbiamo studiato noi, insomma, io almeno. I greci lo sapevano benissimo. Faccio solo un esempio un po' aneddotico, ma quando Alessandro Magno nella Turchia meridionale l'odierna Turchia meridionale viene per la prima volta a scontro campale con l'esercito imperiale, non con l'esercito dei governatori delle province, delle satrapie, ma con l'esercito guidato dal gran re, questo è il nome del re persiano, il gran re Dario III, ottiene una vittoria importante che fece epoca nell'antichità anche nell'arte, cioè questo grande mosaico che rappresenta Alessandro e Dario proprio in questa battaglia. E il re fugge per salvarsi e lascia la corte, in particolare lascia l'harem delle donne, ma anche la famiglia, la madre, le figlie, la regina madre, le figlie, la moglie, no? La moglie. Alessandro avrebbe potuto fare di tutto, e invece rispetta, onora, accoglie nel migliore dei modi le donne della famiglia reale, mostrando un enorme rispetto, non solo personale ma anche culturale. Poi quello che accadrà dopo lo dimostra, un enorme rispetto culturale per i persiani. Alessandro diventa in un qualche modo un re dell'Asia che succede ai persiani, eppure era passato in Asia per distruggere l'impero persiano e conquistarlo. Quindi loro sapevano molto bene che c'era un rapporto strettissimo tra mondo greco e mondo persiano, noi l'abbiamo dimenticato, e quindi bisogna un po', e questo è un esempio. E poi anche in altri casi, cioè, c'è una certa attenzione ai mondi periferici, perché i greci in realtà non erano affatto, come dire, radicati, per fare un gioco di parole, erano mobili, estremamente mobili, no? Estremamente mobili. E d'altra parte, forse il greco più famoso, che è Odisseo, l'Ulisse, no? Chi altri è se non quello che viaggiò moltissimo e imparò moltissimo? Cioè i veri greci sono questo, no? Ecco. Una pallida idea di tutto questo è quello che vorrebbe esserci dentro questo libro. Visto che abbiamo menzionato i viaggi, un'altra caratteristica del volume è l'ampliamento della dimensione geografica della storia greca, a partire dalle origini, dalla evidenziazione della mobilità mediterranea, della dimensione pan-mediterranea della civiltà greca delle origini, sino appunto all'età di Alessandro, quando ovviamente l'impero di Alessandro arriva a coprire l'Oriente fino all'Indo. Anche questo va sottolineato, no? Perché dà l'idea di come il volume riesca a raccordare entro una vicenda storica unitaria e amplissima, anche da un punto di vista geografico, degli eventi che spesso e volentieri hanno invece una natura policentrica, no? Come è tipico del mondo greco. Sì, sì, no, sì, non c'è dubbio, insomma, qui c'è un tentativo piuttosto difficile, insomma, da realizzare, un tentativo di inquadramento non certamente mediterraneo, ma anche ultramediterraneo, no? Fino appunto all'Asia e all'Asia centrale. C'è sono una serie di capitoli, no, di paragrafi in realtà, su la parte asiatica dell'impero persiano e poi degli imperi ellenistici, cioè costruiti dai successori di Alessandro, dove è molto interessante vedere all'opera questa incredibile capacità dei greci di interagire di interagire con gli altri, di interagire senza perdere la loro identità, e in mondi completamente estranei alla grecità, quindi le steppe, i deserti dell'Asia centrale, le montagne dell'Hindu Kush, le propaggini dell'Himalaya, il fiume Gange, mantenendo sempre una capacità di interpretare, di capire, certo a volte usando anche la violenza, come tutti, ma esercitando questa capacità di interesse di capire, di spiegare, insomma, l'etnografia, cioè la disciplina che in qualche modo descrive gli usi e i costumi degli altri popoli, insomma, è greca, è nata con i greci, insomma. Posso un'altra domanda per Maurizio Giangiulio sulla quanto le fonti archeologiche, epigrafiche, che spesso e volentieri rimangono un po' all'esterno delle trattazioni manualistiche della storia greca, sono invece integrate all'interno del volume e della storia che racconta? Sì, sicuramente sì, le fonti, soprattutto quelle archeologiche, sono molto utilizzate, sono integrate, però direi che ancora più importante è che qui la storia dei greci non è raccontata raccontando quello che Erodoto, Tucidide, Senofonte, cioè gli autori greci raccontano, anche i loro racconti vengono messi in prospettiva, i cosiddetti storici greci, Erodoto, Tucidide, Senofonte e tanti altri, interpretano, e noi dobbiamo interpretare le loro interpretazioni, e questo è abbastanza interessante in questo mestiere. Qui naturalmente c'è un po' il risultato finale, non è... però sì, qualcuno potrebbe dire, beh, in fondo le testimonianze letterarie non sono in primo piano. Beh sì, è vero, cioè non sono esattamente in primo piano, nel senso che non ci facciamo dettare l'agenda. Vi faccio un esempio solo. Erodoto parla dei Medi e dei Persiani. I Medi sarebbero i predecessori dei Persiani. Nell'ottica di Erodoto, i Medi avevano un impero. L'impero dei Medi viene poi conquistato dai Persiani. Poi l'impero dei Persiani sarà battuto da Alessandro Magno, questa logica della successione degli imperi, ma insomma l'impero dei Medi distrutto, comunque assoggettato dai Persiani, è quello che Erodoto dice. Quindi grande fonte letteraria, il primo storico, il pater historiae, eccetera. Oggi sappiamo che, leggendo le fonti orientali persiane, e quelle assire anche, sappiamo che non era così, cioè l'impero dei Medi è più una costruzione storiografica che non una realtà. I Medi furono importanti, furono potenti guerrieri, ma insomma non è che costruirono proprio l'impero a cui i persiani succedettero. Quindi questo è un esempio, uno solo, ma si potrebbero fare molti, Erodoto, Tucidide, degli altri, vanno inseriti in un discorso critico, non è che possiamo limitarci più, è stato fatto per molto tempo, a ripetere quello che dicono. Del resto è frutto della concezione positivistica, no? della storia, l'equivalenza tra storia e storiografia, la storiografia come esatta trascrizione della realtà fattuale, anche lo storico che scrive un'opera storiografica interpreta, e quindi chi come noi deve avere a che fare con gli storici antichi deve interpretare le loro interpretazioni con l'ausilio di un'altra serie di fonti documentarie, l'archeologia, l'epigrafia, che secondo me implicitamente, forse più che esplicitamente, ma sono veramente parte integrante di questo volume, che ha proprio la caratteristica di lasciare ampio spazio alla problematizzazione, che di solito è evitata, no? Nella manualistica universitaria si tende al tratto strettamente venemenziale, si tende ad evitare problematizzazioni, discussioni storiografiche, invece in questo volume anche la trattazione della catena venemenziale è sempre problematizzata, cioè si tende a spiegare non soltanto gli eventi, ma perché accadono gli eventi, qual è in ogni occasione la posta in gioco, quali sono i motivi che determinano un'azione o un'altra, quindi è davvero un manuale innovativo. Sì. Giorgio, scusa, posso intervenire in questa cosa? Allora, c'è un aspetto che ho trovato interessante tra i tanti del volume, che è proprio quello che hai trattato sulla memoria, no? Perché pensavo che in realtà una parte importante della nostra memoria è costruita su quella memoria lì, cioè la memoria occidentale è una memoria al quadrato di quella che è stata trasmessa. Ecco, tu hai analizzato, almeno per quanto riguarda le guerre persiane, ma anche per altri aspetti, insomma, questa cosa. Allora, quali sono le questioni nodali, no, che ci sono in questa dimensione, che mi pare interessante? Ecco, procedo in linea con quanto detto prima da Maurizio Giangiulio a proposito dello sforzo che noi dobbiamo fare di interpretare gli storici. Le guerre persiane sono un esempio, un macro esempio di come la narrazione storiografica principale che ci è giunta delle guerre persiane, quella fornita da Erodoto e ritenuta comunemente la trascrizione precisa e compiuta di come le guerre persiane sono accadute nella realtà storica, in realtà non sia esattamente questo, sia anzi una rielaborazione, una riscrittura, una anche risemantizzazione di eventi che per Erodoto sono accaduti 50 anni prima circa, e che in quei decenni sono state oggetto di numerosi altri momenti e fasi di memorializzazione, di racconto, di rappresentazione da parte delle varie comunità coinvolte, gli ateniesi, gli spartani, i corinzi, eccetera, che hanno lasciato altro tipo di documentazione, monumenti, iscrizioni. Il lavoro che ho fatto fondamentalmente è stato quello proprio di mettere assieme la documentazione di tipo non storiografico, anzi pre-storiografica, delle guerre persiane nel cinquantennio che le separa dalla prima narrazione storiografica di Erodoto, per scoprire che le guerre persiane erano non soltanto state ricordate in maniera molto diversa da come Erodoto le ha raccontate, ma erano anche in parte accadute in maniera diversa rispetto a quanto Erodoto le ha raccontate. Per questo è fondamentale essere consapevoli delle dinamiche di costituzione, di trasmissione, di circolazione della memoria storica, soprattutto in un contesto dominato dall'oralità fondamentalmente come quello della Grecia di V secolo. Allora, se i nostri ospiti sono d'accordo, io lascerei anche un po' di spazio a domande e curiosità del pubblico. Insomma, gli argomenti toccati sono molti, anche i tagli interpretativi proposti, insomma, possono suscitare sicuramente l'interesse da parte di qualcuno. Prego. Grazie. Se posso muovere una breve premessa di tipo matematico, cioè la parte in Grecia avevano grandi impulsi agli aspetti scientifici, ad esempio sono errori di misura, la circonferenza terrestre, la spinta di Archimede era italiano, era Siracusa, insomma, probabilmente italiano di cultura greca, però non si sa ancora. Almeno così ho saputo dagli storici la matematica, poi non so, insomma. E poi abbiamo poi, diciamo, Zenone, il paradosso della chi della tartaruga, Zenone era in Italia, era bassa Campania, insomma, quindi era dei nostri. Poi il grandissimo impulso, diciamo, di Euclide. Tutti noi abbiamo studiato geometria euclidea, ancora si studia dopo migliaia di anni, insomma, questo dimostra. E infine l'ultimo che sentire, piccola Ptolomeo, che è tanto distrattato dicendo che prima ha ragione Ptolomeo, troppo non è vero, hanno ragione tutti e due, con metodo di Copernico solo più comodo, ma tutti e due hanno ragione, insomma. Invece qualcosa, due domande, una è di tipo economico, cioè l'economia o le economie greche, diciamo, più di stampo, diciamo, capitalistico o di stampo, diciamo, comunistico, collettivistico, più o meno, queste due cose, se si può. E un'altra, una mia analogia da incompetente, quindi nessuna responsabilità. L'Europa mi è sembrata, ho fatto un paragone, un po' come le città greche, che si sono dissanguate in lotte intestine, ma fino sono stati romani, hanno fatto piazza pulita, hanno sottomessi tutti e basta, finita così. È un po' questa impressione dell'Europa che si è dissanguata in guerra eternamente fino alla seconda guerra mondiale e adesso è andata a passare le potenze straniere perché non riesce più a essere autonoma da sola. Non so se il paragone è troppo sbagliato, però grazie. La prima è più facile, la seconda è molto complicata. La prima domanda è più facile nel senso che una di quelle profonde differenze che segnano la formazione della città greca e della civiltà, della cultura greca rispetto alla civiltà egiziana, quella mesopotamica, no? Eccetera, eccetera. È proprio questa, che in Grecia non ci sono aspetti di tipo, virgolette, collettivistico, no? Anche l'economia è un'economia che è fortemente basata sulla libera proprietà individuale della terra e dell'impresa. Per quanto riguarda la terra, faccio un esempio che può essere emblematico, cioè in Grecia esistevano grandi proprietà di terreni, ma non c'era il latifondo. Cioè enormi estensioni di proprietà di una famiglia. E, dice, e voi dite, beh, ma allora non erano grandi proprietà di terrieri? No, esistevano le grandi proprietà di terrieri, ma avevano proprietà frammentate e sparpagliate in una vastissima area, per esempio la regione lattica, no? La regione di Atene, no? Questo per indicare quanto la logica della unificazione, della concentrazione del potere, dell'economia, della politica fosse estranea alla cultura dei greci. E quindi era una società economica che si muove in una direzione in un certo senso moderna, cioè i greci nel IV secolo hanno delle istituzioni bancarie, conoscono il prestito, l'investimento, hanno scambi commerciali, trafile di scambi commerciali molto sofisticate, hanno lettere di credito, cioè un'economia. Infatti non a caso nell'Ottocento si diceva ma insomma quella è un'economia protocapitalistica. Non è esatto, non è esatto nella maniera più assoluta, non è, nella maniera più assoluta, però l'elemento della proprietà individuale, dell'impresa individuale è rilevante, è molto rilevante. Quindi questa è la risposta facile. Quella difficile, in un certo senso, secondo me, un paragone, un'analogia, no, si può fare, nel senso che perché l'Europa alla fin fine come hai detto tu, è sempre stata divisa, ma perché l'Europa è un crogiolo di culture, identità, tradizioni, costumi e quindi anche realtà politiche molto autoreferenziali, no? Cioè, prendete un belga e un francese, cioè, voglio dire, o un pisano e un livornese, no? Cioè, e beh, per i greci era questo. Se pensate che le polis, le comunità politiche, avevano calendari diversi tra loro, a distanza di 50 chilometri, monete diverse, di peso diverso, organizzate diversamente, spesso pesi e misure diverse l'una dall'altra. In molti casi, non sempre, ma in molti casi dialetti diversi. Quindi questo è un mondo di una pluralità identitaria incredibile e molto forte, è molto forte. Quindi non è che non sono riusciti a unificarsi perché erano divisi da assurde rivalità, era impensabile. Una unità dei greci era impensabile. E quindi forse anche, cioè, per l'Europa non lo so, forse tra qualche generazione, ma insomma, però non è una cosa semplice. Quindi un'analogia secondo me si può fare. Grazie della domanda. C'era il signore in fondo. Forse anche senza microfono. Volevo chiedere, ma le cause più di fondo della presenza dei greci dal Nord Nero al Mare Adriatico, sì, cioè le colonie, quali erano? Conquista, le case, sì, la ringrazio della domanda. O diciamo così, bisogni insoddisfatti in Grecia? Allora, le cause sono ancora più profonde. Cioè, adesso sappiamo che nessuna località del mondo mediterraneo è in grado di essere assolutamente autosufficiente dal punto di vista delle risorse. Ha bisogno di procurarsi risorse altrove. Possono essere adiacenti, nella baia vicina, nell'isoletta di fronte, o molto lontane, come lo stagno che serve a fare il bronzo e che bisogna andarsi a procurare o nel Caucaso o lì dove la penisola iberica sfiora l'oceano Atlantico, tra Mediterraneo e l'oceano Atlantico, e lì arrivava lo stagno dalle isole britanniche, no? Ecco. Quindi nessuna località è assolutamente in grado, completamente autonoma e autarchica, anche dal punto di vista delle risorse alimentari. Il clima era incerto, crisi climatiche c'erano già allora, forse più brevi, carestie, alternanze di carestie e di produttività, una tecnologia molto elementare. I greci erano tanto brillanti quanto tecnologicamente arretrati, e quindi tutto ciò che era conservazione, stivaggio, distribuzione era molto complicato. E quindi le risorse si sprecavano. Allora il rimedio qual era? La mobilità, connettersi continuamente da una parte all'altra, facendo filiere nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mediterraneo orientale, andando fino sulle coste della Siria, della Fenicia, no? In cerca di materie prime, legname, cuoio, stagno, rame, materiale da costruzione, cibo, il grano. La Grecia è senza grano, il grano viene dal Mar Nero, viene dalla Cirenaica, no? Viene dalla Sicilia, e offrendo in cambio ceramica, olio, argento, no? Quindi questo grande circuito di scambi. Questo circuito di scambi esiste da età antichissima, e la cosiddetta colonizzazione, brutto termine perché vabbè, è lungo il discorso, le colonie non erano dipendenti, quindi non erano vere colonie, ma erano città autonome. Comunque le colonie si inseriscono in questo mondo movimentato di connessione da un estremo all'altro del Mediterraneo. Quindi le cause, il motivo di fondo è che a un certo punto, il potenziale demografico, insomma, la crescita demografica fa sì che questa mobilità venga supportata da insediamenti lontani. Le colonie in greco, la parola greca significa insediamenti lontani, case lontane, che supportano questo mondo, supportano questo movimento. Non sono dei disperati quelli che emigrano, quindi non è funzione del bisogno, non è funzione, è significa andare a presidiare un enorme spazio che è quello mediterraneo, che serve, che serve. E quindi, insomma, questo è un po' il modo di vedere adesso le cose, d'accordo? Grazie. Buonasera. Buonasera. Allora, io vorrei fare un appunto domanda su quello che ha detto il signore prima. Sì. Cioè, il suo tentativo di trovare delle analogie non può essere fuorviante per capire veramente quel modo lì. Ha più un paio di volte ha usato anche il nostro, vostro, eccetera, eccetera, perché c'è questo tentativo di vedere la storia come una conseguenza che arriva a noi. Quando può essere un grosso limite per capire veramente questo mondo? Questa è la prima domanda. E la seconda è riguardo il cambio di pensiero della storiografia nel periodo della formazione sulla base di alcune scoperte archeologiche recenti di 10-20 anni fa, come quello dell'Efkandia Eubea e il supporto anche oltre dell'archeologia, se ci sono altri siti che provano l'esistenza di qualcosa di diverso rispetto a quello che si pensava di una discesa dei dori, eccetera. Che fino ad oggi comunque ci sono sui manuali scolastici. Grazie di queste due belle domande. Allora, sulla prima, è chiaro che io, diciamo, sono d'accordo con lei, no? Sulla prima domanda. Però se un cortese oltre ascoltatore, oltre che ex collega, mi pone una domanda su una possibile analogia tra la pluralità delle identità greche e quella che caratterizza l'Europa, beh, io devo scendere su quel terreno, non posso dire no, questo non ci serve per capire la Grecia. Scendo su quel terreno e dico che delle analogie ci sono, dopodiché certo non è che possiamo usare l'analogia con questo tipo di analogia con l'Europa moderna per capire la Grecia, cioè mi spiego, ecco, quindi insomma, in qualche modo ho risposto in un certo senso a quella domanda. Se poi lei mi dice ma ci serve davvero per capire la Grecia, direi di no, direi semmai il contrario, semmai questo mondo di feroci identità ci serve un po' per capire l'Europa. Però, visto che ci siamo, con un warning, un'avvertenza, cioè l'ho detto prima, cioè i greci hanno fortissime identità locali, culturali, però hanno sempre dimostrato una impressionante capacità di capire gli altri. E questo serve anche oggi. Ecco. La seconda domanda, nel libro si parla di Lefkandi, cioè, ora, insomma, questo è un caso un po' specifico, ma diciamo che tutta la prima parte del libro sulla formazione è tutta ispirata a quest'idea che non c'è stato il Medioevo dei Greci, la Dark Age, le età oscure. Oggi si fanno convegni intitolati Brightening the Dark Age, cioè gettare luce sull'età oscura. Questa consapevolezza c'è, il caso di Lefkandi viene fatto, ecco, quindi che l'archeologia aiuti, come Giorgia Proietti osservava, è abbastanza evidente nel libro, non è sparato a titoli di giornale, ma però insomma è abbastanza evidente, quindi va bene. Allora, se non ci sono altre domande, come se ne posso farne un'ultima che avevo fatto anche agli altri colleghi, no? Alla fine un lavoro editoriale come questo è ovviamente rivolto anche al pubblico degli studenti, no? Sì. E come dicono gli inglesi, la prova del budino è mangiarlo. Allora, come l'ha mangiato questo libro gli studenti? Come lo stanno mangiando? Cioè, nel confronto che avete utilizzando questo come strumento, e lo chiedo anche perché dal pubblico ci sono dei docenti, e quindi... Qual è allora, stata la... Sì, la risposta non è semplice, nel senso che... Allora, per studenti qua definiamo studenti di studenti universitari, perché questo non è in nessun modo rivolto alle scuole superiori o inferiori, perché mi sembra che la storia greca, cioè, si fa nel primo anno delle superiori, quindi poi dopo non si fa più. Ma questa è una delle tante stranezze della disorganizzazione cui è pervenuto il sistema scolastico. Ok, quindi sono studenti dell'università. Allora, io devo essere molto franco. È una franchezza sofferta, non è una franchezza baldanzosa. Esistono sul mercato dei prodotti estremamente semplici, che vendono di più, cioè che sono più adottati. Questo è un prodotto che alza un po' l'asticella, ma è chiaro che la alza in rapporto ai docenti. I docenti devono spiegare, commentare, illustrare, guidare all'uso di uno strumento di questo tipo. Non si può abbandonare un libro di questo genere alla libera, autonoma, totalmente autonoma e autoreferenziale lettura dei ragazzi. Chiaramente questo è uno strumento flessibile e interattivo per definizione. Se usato così, ci sono molti casi in cui il riscontro è molto buono. A me è capitato a Trento, e non mi pare che gli studenti trentini siano i migliori del mondo, anche se sono molto bravi, però non sono i migliori del mondo, no? Beh, però a me è capitato che qualcuno a lezione, parlo di matricole, quindi 19 anni, 20 anni, con il libro in mano: ah professore, ma io ho letto qui il saggio, vi faccio un esempio concreto, il saggio numero 6, le elite arcaiche, che è uno dei più sofisticati, cioè, ah, ma mi è interessato moltissimo perché qua si vede che questi qui non erano delle caste. Cioè, io sono una ragazza che insomma poi si è laureata, eccetera, che è venuta a dirmi, quindi vuol dire che ha delle potenzialità di stimolo. Non è proprio una favoletta, questo sì. Si sta vendendo più che decorosamente, non è il più venduto, ovviamente, perché? Perché c'è almeno un prodotto che è francamente molto molto semplice. Però quindi, posso aggiungere una cosa? Certo. Scusi, faccio così. La mia testimonianza, io in questo momento sto seguendo i ragazzi che studiano su questo manuale con delle lezioni, diciamo così, di supporto, che sono molto interattive, molto partecipate, quindi diciamo anche che c'è un'edizione online. Sì, lavoro con loro anche sulla versione digitale del manuale, che è corredato da una serie di strumenti digitali che sono utilissimi e anche divertenti per certi versi, test. E devo dire che secondo me stimola molto al ragionamento, cioè i ragazzi capiscono che è una storia un po' più problematizzata e non venduta così per fatta, finita e pronta, e nel dialogare insieme, cosa che appunto riesco a fare perché sono lezioni un po' meno frontali, un po' più interattive e dinamiche, e c'è un'interlocuzione serrata, io da parte di molti, le prime due file chiaramente, comunque noto molta, si interrogano su quello che leggono, quindi vuol dire che il modo in cui il manuale questo è scritto succede anche a me. Oggi ho fatto lezione da mezzogiorno alle 2 e ho parlato di Pericle, quindi argomento chiave, e a un certo punto ho detto: ma andiamo a vedere cosa dice questo grande storico, no? Tucidide, tutti hanno sentito questo nome, cosa dice Tucidide di Pericle? E ho svolto un ragionamento in cui appunto dicevo che bisogna cercai di interpretare Tucidide. Una ragazza, seconda fila per l'appunto, ha alzato la mano, come io li invito a fare, e ha chiesto: ma professore, ma quel... ascoltate bene, ma quello che lei ha detto non è in contraddizione con l'immagine che ci hanno dato a scuola di Tucidide, il primo e più grande storico scientifico? Una domanda terribile fatta da una ragazza di 19 anni, perché significa dire: ma tu che cosa ci stai raccontando? Se quello era il più grande storico scientifico, ha detto la verità, quindi quello che dice su Pericle è Pericle. Tu cosa ci stai raccontando? Che dobbiamo interpretare quello che dice perché Pericle forse non era quello che Tucidide dice, no? E quindi questo che vuol dire? Vuol dire che ha ragione lei. Certo, poi io personalmente a volte ho il sospetto che abbassare l'asticella non sia andare incontro agli studenti, ma rendere il lavoro più facile ai docenti a volte. Temo che sia, in alcuni casi sia un po' così. E fare del male. E fare del male generale, sì. Benissimo, allora io personalmente mi permetto di ringraziare ancora una volta Giorgia Proietti e Maurizio Giangiulio per essersi preso il tempo di essere qui con noi, li ho ascoltati con molto piacere. Ringrazio il pubblico con un po' di vergogna, ricordo che il prossimo incontro sarà l'11 dicembre, visto l'11 dicembre, su una storia dell'inflazione, presenteremo un po' diverso, eccezionale. Cercheremo di legarlo all'attualità. E ringrazio ancora la Biblioteca Flavio Augusta per ospitare questi incontri e arrivederci presto, grazie. Grazie ad Andrea, grazie alla dottoressa e grazie a tutti voi che a quest'ora siete stati a sentirci. Grazie davvero. Monica, giusto i tempi. Ma noi non è che siamo proprio fiscalissime. No, diciamo però c'è un punto giusto.